Ancora. Senza benzina. Ancora. Che fa una pisciata e ci pensi. Ci pensi tu, Ciro? Definitivo. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. Allora stai contenta. Aprite che c'è la stata a Napoli una bandiscina. Capule. Non trovo manco un cazzo in la mutanda. E a me non me ne fotto un pazzo. Una pazza. Ora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. Agilità Jessica che non mi deve cercare più. Più, più, più. Però prima me la gigliavate e ci sono pronto un mucco. Così non rimani incinta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. Allora stai contenta. Sta senza pensiero. Ancora noi. Noi. Noi. Noi. Noi. Ma che fa una pisciata e ci pensi. Ci pensi tu, Ciro? Mannato là perché dovevi trattare Tavi Vambara. E mi pare che a qualcosa è servuto, no? Da ci dite che ti voglio sentire! E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. Agilità Jessica che non mi deve cercare più. Più, più, più. Però prima me la gigliavate e ci sono pronto un mucco. Così non rimani incinta. Ora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora. Ancora noi. Noi. Noi. Noi. Noi. Sta senza pensiero. Ci pensi tu, Ciro? Stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. E allora stai contenta. Senza pensieri.